mentre ti guardo. Volevo di abbracciarti. Io ho sempre desiderio. Mentre ho paura di lasciarti. Solitudine in tutta mia vita, io sempre ti amo nella mia Oh,